Ma ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, buon lunedì a tutti, buon lunedì da Caffè e Paglia, la trasmissione si occupa del calcio fiorentino, si parla solo di Firenze, questa Fiorentina non sta andando bene, vabbè no, stavo scherzando, un saluto a tutti, abbiamo provato a scherzare questa giornata un po' particolare, un saluto da Mingo da questa parte, all'interno del salotto buono dello Sport Bolognese, Caffè e Paglia, il contenitore sportivo del lunedì mattina. La formazione è quella titolare, alla mia sinistra sulla fascia corre Simone, ciao Simone. Che delusione. Vabbè, come su, dici che così, delusione, così. Quindi sulla fascia sinistra non si corre. Vediamo se sulla fascia destra la stella della trasmissione galoppa un po'. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, un 50 a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Si corre un po' rauchi, ma si corre. Si corre un po' rauchi, ma si corre. Siamo davanti a la partita appunto che noi aspettiamo tutti gli anni in un certo modo, dal 1998 l'aspettiamo in un certo modo, 29 novembre, lo ricordi? Allora io me lo ricordo, quella è forse una delle mie settimane preferite perché il mercoledì abbiamo vinto 4-0 contro il Betis di Siviglia con De Nilsson in campo. È vero, e il sabato, perché era di sabato, abbiamo vinto contro quelli là, sì, era così. Pensa che io non c'ero, ero a mangiare fuori con mio padre. Grazie babbo per avermi lasciato a casa quel giorno. Aspetta, dipende. Che cosa hai mangiato quella sera? Pomeriggio era. Ancora si giocava di giorno, nel 98 giorno. Ma vuoi dire, la lasagna era buona, il frigione era cotto bene. Allora. Le cose erano. Ammetto, le cose erano. Se il frigione era cotto bene, ok. Ero ai prati di Mugliano. L'importanza dell'enogastronomia in questo paese è centrale. A proposito, da oggi mi dovete chiamare Sir, perché sono un esponente dell'eccellenza italiana appena riconosciuta come bene immateriale dall'UNESCO, quindi vi dovete rivolgere a me o dandomi del voi o del sir. Ok, grazie. Ci proveremo. Grazie. Ci proveremo. Dado anche per te, cioè vale anche per te, mi raccomando, grazie. Ci proveremo, proveremo a raccontare questa settimana, ovviamente siamo già partiti dall'ultima partita, in mezzo ce n'era stata un'altra. Che insomma anche più divertente da raccontare. Una partita che ho avuto il piacere di vedere dal vivo dal settore ospiti dello stadio del nuovo Balaidos a Vigo in Galizia, città molto bella, che vi racconterei come equidistante tra Lecce e Edimburgo. Perché è una città di mare, ma è su un fiordo molto atlantica, colori davvero oceanici, e un fetish per le luminarie natalizie. Oh, che bello! Importante, che bello, si mangia molto bene, si bello. Beve molto bene. Lo so, grazie per i pasticcini, Mingo, anche a te l'ha riportato. Certo, allora, grazie. Gente molto a cui non coglierò questa provocazione. Si mangerà solo si strozza, si dice dalle mie parti, sai? Non sì. Coglierò questa provocazione, gente presa benissimo una volta superato questo gap linguistico per cui parla il gallego, che è un po' spagnolo e un po' portoghese, si beve molto, si mangia molto bene, tifoseria del Celta Vigo figa, perché è comunque molto, molto legata alle proprie specificità. Ripeto, ci hai fatto assaggiare anche a noi, grazie. È molto, caro, molto, molto interessata alle cose importanti della vita vera, oltre che al calcio. È una bella realtà. Una bella realtà che ci ha portato anche bene, nel senso che è stata un'ottima partita, ben giocata. Io ero un po' stanco, ero a casa sul divano. Ho detto probabilmente mi addormenterò durante la partita. Impossibile. Impossibile addormentarsi perché nonostante l'essere sotto 1-0 la squadra era sempre propositiva, sempre attiva, ha sbagliato anche una serie di gol importanti e poi il secondo, però anche alla fine del primo tempo quella sensazione che si potesse fare qualcosa di più c'è sempre stata. Nel secondo tempo è venuta fuori, grande partita, ha speso tanto il Bologna probabilmente a questa partita, e arriviamo un po' anche al messaggio giunto al 333-180-94-94. Buongiorno da Giuseppe. Nonostante mi sia toccato più volte gli attributi da quando in trasmissione ho sentito parlare di lotta per lo scudetto, le cose non vanno più per il verso giusto. Giuseppe, è da qui che delusione iniziale. È la delusione che è partita dal buon Simone. Diciamo che è stato bravo Spalletti? Lo diciamo? Allora, possiamo dirlo, diciamolo subito, così poi togliamo dal tavolo questo ingombrante argomento. La miglior partita della Juve di Spalletti, sì. Assolutamente sì, giocando un po' a specchio col Bologna, cioè nel senso studiando molto bene il gioco di Tagliano e riproponendolo in alcuni tratti, un pressing alto molto accentuato, più delle ultime uscite della Juventus, che mi facevano dire magari al 70esimo crollano, ecco, perché correvano veramente più del solito. Tagliano, che sapeva che Spalletti avrebbe studiato la partita sul suo Bologna, ha cambiato il suo Bologna, perché anche questo bisogna dirlo. Ferguson non ha giocato sotto punta come Odgar, ma lui ha detto 4-3-3, a me sembrava più un 4-1-4-1 in stile Marocco, cioè con Pobega e Ferguson sempre affiancati e Moro un po' più indietro a fare il playmaker, diciamo. Sì, così. Play basso Moro, come già aveva fatto molto, davvero molto molto bene a Vigo. Sì, dopo averlo fatto quasi tutta la partita e appunto anche sotto la pioggia, quindi una partita che portava con sé anche un po' di tossine, diciamo così, dalla stanchezza, era giovedì, insomma, il viaggio e tutto, sono tornate alle 5 di mattina, cioè c'è stato anche il fatto del viaggio, siamo fermati a mangiare con Fio, a bere con Fio, le cose che non ci ha portato, quelle lì, alla fine snatura un po' il Bologna, cioè la scelta di Tagliano, la sorpresa un po' che arriva subito alla formazione, che cambia un po' il modo di gioco. Incasina un po' tutti, perché parliamo soprattutto del primo tempo, o se vogliamo anche fino al 70esimo, fino alla parità numerica in campo, di una partita giocata generosamente sugli esterni e molto legata, appannata per vie centrali, in cui Dallinga non riesce ad acquisire profondità e non ha mai i tempi giusti, e facilitando il lavoro di Kelly, secondo me migliore in campo della Juve insieme a Di Gregorio. Mentre Ferguson è legato nei movimenti. Raga, ma al di là della disposizione tattica, ok? Ieri è stata una brutta interpretazione proprio tecnica del Bologna. Per esempio, il gol che annullano alla Juventus, se non mi ricordo chi, quando l'attaccante vi sfila letteralmente dietro, cioè sfida proprio dietro il difensore più in alto a sinistra del Bologna e va in gol. È roba la seconda, anche il gol che prendete. Calcio d'angolo, viene da dire. Ma sei da solo in mezzo a quattro del Bologna, dai. Non copre bene il. Ieri per vie centrali male. Infatti, questa cosa. Si richiedeva, sì, anche Lucumì a gesti, diciamo così, chiedeva più presenza in mezzo al campo. E per quello che dico, forse i due davanti alla difesa, questa squadra è più abituata a giocare con i due davanti alla difesa piuttosto che con uno solo. Spesso mi è sembrato, adesso col linguaggio del corpo, ovviamente, vedendole lì dallo stadio, che qualcosa che avevano studiato in allenamento non stava funzionando come avevano studiato, ecco, ho avuto quell'impressione lì. È ovvio che, insomma, l'altra scelta, abbiamo già citato Dallinga, è ovvio che adesso è facile dire io avrei provato Castro, io sarei partito con Castro, è ovvio che quando vedi una partita è facile dirlo adesso, ed è anche facile criticare il turnover quando perdi, perché certo. Il turnover lo fai sempre, non è che il turnover è un problema quando perdi. Guarda che a Napoli hanno il problema contrario, perché con il turnover non lo fa mai, e hanno perso anche loro, quindi se devi perdere la partita, se la interpreti male la perdi comunque. È una delusione, perché questo era veramente il momento in cui cominciavamo a trattare Bologna da grande, e purtroppo fino a qui, perlomeno in casa tra Cremonese e Juventus, ha fallito entrambi gli esami. Allora io sono però d'accordo con le parole del dopogara di mister Vincenzo Italiano, il risultato non cambia i nostri obiettivi, perché comunque è una battuta d'arresto contro una squadra che, lascia stare che la Juve, contro cui non giocherai mai una partita normale, perché anche se vinci il mondiale per club contro il Chelsea, il giorno che giochi contro la Juve viene 4 metri d'acqua, cioè diventa Perugia del gol di calore, succederà sempre qualcosa e non sarà mai una partita normale. Oppure a marzo ci saranno 48 gradi e 18 cooling break, ogni volta cooling break mentre hai la palla a te. Cioè, c'è uno spirito della storia che si rivolta contro il Bologna sempre, ogni volta che si parla di una partita con la Juve. Ma il nostro obiettivo rimane quello di inizio stagione, qualunque esso fosse. Cioè, senza specificare. Arrivare a un piazzamento europeo facendo più strada possibile in Coppa. Giocarsela su tutte le competizioni, perché comunque la Coppa Italia a italiano piace. È una cosa che piaceva già prima, quindi quella è, ed è un Bologna che in questo momento ha perso, diciamo, quel treno forse per la lotta allo scudetto, tornando alle parole di Giuseppe, però rimane una squadra che è in lotta, in corsa per passare il turno, anche se da vedere se al primo turno subito o al secondo. Abbiamo due partite relativamente semplici davanti, Celtic e Maccabi. Se fai 6 punti è probabile che arrivi ottavo, cioè nei primi 8, e quindi salti una partita che, visto che sarebbe oro, visto il calendario, sarebbe oro, mi sembra abbastanza pieno e fitto, non sarebbe male. E in mezzo c'è questa meravigliosa gita a Riyadh, perché il Bologna giocherà la Supercoppa venerdì, la semifinale contro l'Inter, ed eventuale finale il lunedì. Rimangono lì per un po' di giorni. Calendario fatto da un pazzo. Una roba allucinante. In una situazione in cui ormai in difesa non c'è più nessuno. È ovvio che l'espulsione di Eghem ti toglierà uno dei pochi titolari rimasti in difesa per la prossima partita. Adesso non so se rimane. Cioè, quando la può ascoltare in Supercoppa, così ce la togliamo? Temo di no. Perché se no ce la toglievamo subito, non era neanche male. Il fallo di Eghem per geometria nel campo è evidentemente da ultimo uomo, ma quello è un contatto che in un altro posto del campo per me non è neanche fallo. Beh, lì gli parte, sbaglia il rimbalzo, sì, calcola male il rimbalzo lo colpisce di culo. Sì. Cioè il fallo lo fa con le terga, è fare un fallo per non far vedere che fai un fallo, ma quello è fallo tutta la vita, purtroppo. E da lì, dall'espulsione, il Bologna prova, fa cambi, prova a mettere in campo una squadra con qualche centrale, perché poi anche Lukumi a un certo punto esce, quindi in realtà non c'erano più centrali di difesa, insomma, cioè, Olm, Braccetto e De Silvestri, l'ultimo uomo, esatto. Se vogliamo trovare una nota positiva nelle prestazioni dei singoli nella fase hardcore della partita, negli ultimi 20 minuti, possiamo dire che avevamo già avuto suggestioni in merito, che Sulemana è uno che di lavoro a calcio ci può giocare. È un po' sorpresa l'entrata, diciamo, di Sulemana. Mana fa piacere, vuol dire che il ragazzo si sta applicando, perché l'avevamo visto molto poco durante la stagione. Se in Bologna-Juve come primo cambio prendi lui, vuol dire che ti fidi del ragazzo, ecco, che ha anche qualità. Ha dimostrato che comunque può mantenere la lucidità in momenti difficili, bene, sì. Ha giocato bene, ordinato, pulito. Non si può dire lo stesso di altri subentrati o di altri titolari, ma metterci qua a pesare le prestazioni individuali dopo una partita come quella di ieri è, secondo me, non è la chiave di lettura giusta. E dobbiamo fare un ragionamento più ampio possibile su quante energie hai, come le puoi dosare. Ieri hai fatto delle scelte che non hanno pagato proprio dal minuto zero. Sei partito in maniera strana, e anche se nel primo tempo non abbiamo giocato malissimo, c'è una traversa che ha vibrato forte, sono un po' di azioni, c'è stato, a un certo punto ho rivisto un po' c'erano tre terzini sinistri. sulla faccia sinistra, ho visto tre giri, un po' modello Gasperini, Gasperiniano, primi tempi all'Atalanta, no? C'era un bel frullo. In realtà sulle fasce abbiamo fatto poco, abbiamo lavorato di più a sinistra nel primo tempo, Orsolini poco, sia nel primo che nel secondo, Cambiaghi è molto calato, dopo un discreto primo tempo è molto calato e quindi le frecce, diciamo così, del gioco di italiano erano un po' polveri un po' bagnate e comunque rimane il fatto che insomma l'ha studiata proprio bene Spalletti in questo caso, anche se non mi sta proprio simpaticissimo l'allenatore della Juve, devo dire che l'ha portata a casa e ha dato un senso a questa squadra. Tra l'altro non è riuscito ad andare da Treju perché giocava perché aveva la partita, sì, sennò, sì. Sennò sarebbe andato. Ma ho visto che c'era comunque un altro toscano, cioè un toscano c'era. C'è pieno di toscani. Se la presenza toscana era necessaria, ho visto che insomma anche una presenza un po' ingombrante. Vabbè, ritorniamo a Bologna. Sì, ripeto, sono un po' deluso, più che ero convinto che perlomeno gli impegni al Dallara voi ve li sareste mangiati, visto la situazione che si era cominciata a creare in classifica, ecco perché un po' di delusioni, però questo è un campionato che vince l'Inter ma perde il Napoli, però poi che ne so, l'esatto contrario, rivince il Napoli, perde l'Inter, la Roma ogni tanto si ferma, il Milan è quello di cui insomma abbiamo sempre parlato, ecco perché continua, mi rimane un po' da male, perché questo è un campionato che veramente potevate attaccare. Grazie Simone. Aprendo un po' di argomenti, bello avere amici, sai quando No, però hai ragione, è un Bologna che sta andando bene in Europa, che adesso c'ha la Supercoppa, che insomma, butta la via, insomma, da vincere non è neanche male, e quindi va bene, va trattata da grande per quel cioè, progetto maturo, insomma, ok? Vediamo. Sono io che ormai ero già convinto che cioè, si poteva andare all'assalto. La cavalcata, sarebbe stato. Togliamoci dalla testa questo, mettiamoci invece nell'ottica in cui appunto dovremmo sudarcela ancora per entrare in Europa, diciamo così, perché la classifica è quella che è, c'è un Como che gioca stasera con la Roma, che è credo un punto dietro al Bologna. Sì, esattamente. La Juve adesso è un punto avanti, il Bologna avendo vinto lo scontro diretto, il Bologna è sesto in questo momento, quindi insomma sei lì ancora in posizioni europee. Però, a quanti punti dall'Inter, dalla prima? Dalla prima solo, adesso iniziano ad essere 8. Otto punti alla prima, e da questa Inter diventa molto difficile farla. Prossima partita, ovviamente abbiamo detto contro l'Inter, però in Supercoppa, dopo si giocherà in casa con Sassuolo che è già tema da top 5, è protagonista di una delle partite più interessanti della giornata. Invece tornando ad altri scenari, voi come interpretereste la Supercoppa che non garantisce più vai a vincerla? No, è un trofeo, lo vedi come un trofeo? Assolutamente sì. Caspita, come no? Sì. Ma ogni trofeo che è in palio è un trofeo, non è che ce lo vedo io, è un trofeo. Perché dopo, perché il discorso è sempre tutto molto legato all'estetica, ok? Adesso finché non lo vinci, dici vabbè, la Supercoppa, chi se ne frega. Poi quando lo vinci, che succede? Qual è l'effetto a catena subito? Che immediatamente dopo su tutti i canali social del Bologna ci sarebbero immagini di sto trofeo, che non è neanche brutto proprio esteticamente come trofeo, che viene sollevato, quindi i fuochi d'artifici, i coriandoli, sono tutte immagini che cominciano a fare il giro di tutta l'Italia, anche a livello internazionale. È diverso come l'estetica poi dopo te la racconta, te lo fa sembrare ancora molto più importante rispetto a quello che magari è. E comunque, cioè, vinci la Coppa Italia, vinci la Supercoppa, cioè comincia ad averci quel senso di piacere a sollevare i metalli, non so se mi spiego. E quello è tanto perché entra nella capoccia dei giocatori. Quando poi ti abbini, oh, sai che è? Non è male tirare sui metalli, capito? Ma sarà uguale quello dell'Europa League, ad esempio, sarà uguale quello quell'altro. Per me vai per vincerla. Io amo poco la Supercoppa, già la capivo all'inizio una volta, partita secca, ad agosto non c'era ancora niente, era la prima partita, vabbè me la guardo perché è chi aveva vinto lo scudetto contro chi aveva vinto la Coppa Italia, era un po' un modo la per la prima gara ufficiale vera della stagione, era un po' un modo per ritornare ad avere l'appuntamento fisso settimanale, e quindi un po', ma neanche lì la seguivo molto, ovviamente ero molto lontano da poterla giocare in quei periodi e quindi me ne interessavo meno. Adesso è un po' una roba così fatta per soldi, solo esclusivamente per soldi, è ovvio che in questo sporco mondo i soldi aiutano. Ha molti difetti, ma almeno non si gioca a Perth. Ecco, può essere peggio. Poteva andare peggio, potrebbe giocare a Perth. Noi andiamo con una uno stacco musicale e poi ci buttiamo dentro a una top 5 ricca. Stranissima, morbidissimi, morbidissimi. Rientriamo per una top 5 esotica. Esotica, top 5 esotica, rientriamo al pelo. Perché abbiamo discusso di questa top 5 esotica. E infatti è esotica. Perché è esotica? Perché non contiene la capolista. Non contiene la capolista. È una scelta della redazione. Sappiamo che... È una scelta del regista. Sappiamo tutti che Lautaro sta lautarando, ma non contiene l'Inter. Non contiene l'Inter, esatto. Allora, però, siccome abbiamo detto che Lautaro sta lautarando, entriamo nel campo della top 5 con un punto così un po' metatestuale, un po' filosofico, che abbiamo chiamato attaccanti strani. Sì, attaccanti un po' strani. Strani, strani. Diciamo che noi idealizziamo Lautaro come l'attaccante con la A maiuscola del campionato italiano in questo momento. Perché? Perché c'ha fotta, c'ha voglia, c'ha cattiveria, c'ha quelle doti balistiche, vede il campo, lo spazio, i compagni, la porta in quel modo. Poi ci sono gli attaccanti strani, oppure anche attaccanti normaloni, attaccanti veri, attaccanti senza troppi aggettivi intorno, che però fanno gol strani, o anche gol brutti, gol che pesano come quelli belli, ma comunque non possiamo trattarli, insomma, nella categoria dell'attaccante regular, ma mettiamo attaccanti strani. Attaccanti strani. Intanto è arrivato un altro messaggio al 333-180-94-94, dice: forza ragazzi che il campionato non è finito, forza Bologna. Bravo, bravo, non so chi sia, ma bravo, bravo. Questo era il messaggio che Simone voleva. Bene. Messaggio che ci piace, che condividiamo totale. Attaccanti strani è un pezzo condiviso tra un grande protagonista di giornata, uno che ha fatto doppietta, due gol bruttini, tutti e due bruttini, il secondo in particolare. Tra il fortuito e l'istinto puro, non lo sai valutare. La sua esultanza racconta che non è che l'abbia proprio immaginato così quel gol, specialmente il secondo, quello che porta ai tre punti definitivi per l'Atalanta in casa contro il Cagliari. Tutti e due i gol comunque li ha fatti Scamacca. Scamacca è tornato, Scamacca, infortuni, doveva essere, insomma, il suo anno, poi ha avuto un po' di sfortuna, adesso sta riprendendo. È importante trovare italiani che seguino, perché, insomma, comunque dobbiamo ancora conquistarci il mondiale. Sì, a proposito, spero che Gennarino nostro stia guardando quello che il campionato sta dicendo. Non voglio toccare altri punti da top 5, tanto poi ci arriviamo, però è importante, è molto importante che Gennarino guardi e prenda decisioni. Ho sentito un'intervista a Francesco Toldo, così, che è amico di Gattuso, e gli hanno chiesto: ma secondo te Gattuso chiamerà Palestra questi giovani? Gattuso li sta guardando, ha detto. Che guardi una partita di calcio ogni tanto, uno che di lavoro fa l'allenatore, ci fa piacere, comunque lo prendiamo come un contenuto positivo. Però Toldo ha detto che li sta guardando. No, non voglio correggere il fio, però non fa l'allenatore ma fa il selezionatore, che è ancora più, cioè devi proprio guardarlo. Praticamente devi guardarlo. Comunque, vedi, intanto li sta guardando, speriamo li possa anche convocare alcuni. Diciamo Scamacca che porta alla vittoria l'Atalanta contro il Cagliari di Palestra, che giusto per ricordare a Gattuso i nomi che vanno seguiti. È un'Atalanta che diciamo molto meglio che con Juric si sta riprendendo con Palladino. Adesso non voglio sparare sulla Croce Rossa, però insomma, beh, dai. L'Atalanta c'ha questa bella tradizione di presentare sotto Natale sempre una divisa speciale. Quest'anno un po' niente eccezionale. Sottotono. Mi piace il progetto, ma quest'anno un po' così. L'ha disegnata Juric, per quello. L'aveva disegnata lui, doveva esserci lui alla guida nella sua idea. Ha questa filigrana con scritto Naspi, che racconta delle grandi disponibilità di tempo libero per il futuro. E attaccanti strani, dicevamo, ed era al plurale, perché un altro marcatore da tre punti sblocca la sua situazione psicologica, forse. Ce lo auspichiamo soprattutto per il Lecce, che ha puntato tanto su di lui. Parliamo di Sturic, che fa il primo gol in campionato. Sturic, presa di Pantaleo Grande, di quelle visionarie balcaniche che fa lui, questo è il nuovo Krstović. Appena hanno detto così, Krstović, che all'Atalanta ha deciso di iniziare a ripiegarsi su se stesso. Sì, ha giocato veramente per ora la prima parte sottotono e con insomma, pochi spunti. Stulić è arrivato invece al primo gol. È un gol da 3 punti contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza, e fa stare tranquillo per un po' il Lecce. Insomma, il Natale si passa tranquillo. Il buon Difra, quando sono contento che passa un Natale sereno. Bravo, ma quant'è che non passavo un Natale così sereno di Francesco? Non lo so. Da Frosinone, temo. Può essere, non benissimo. Non è andata bene alla fine. Dice: no, basta il Natale di Francesco. È vero, stiamo lì, infatti parliamo nemmeno possibile, perché a noi sta simpatico di Francesco. E tutte le volte che lo abbiamo incensato, l'abbiamo spinto e tutto, è andata come la carriera di Francesco racconta. È successo un casino, possiamo dire, è successo un casino. In questo momento il Lecce marca 16 punti più 4 dalla zona retrocessione. I 3 punti sono pesanti il doppio, perché sono nello scontro diretto col Pisa, che in questo momento è penultimo a 10. Eh sì, penultimo, perché non c'è più il Verona penultimo, era il Verona penultimo prima di questa giornata. E invece l'omaggio che la Lega Serie A rende ai daltonici di tutto il mondo, oltre al pallone arancione fosforescente, va in campo al Franchi, dove la Fiorentina gioca con la maglia della Pistoiese e il Verona gioca con la maglia dei grigi di Alessandro, infatti mi sembrava Alessandro. Allora, c'è stato un momento estetico quando quando si attaccava verso la porta alle Franche, che adesso non c'è più, c'è un cantiere aperto, con queste due, chiamiamole, divise in campo. Era uno dei momenti estetici più brutti che abbia mai visto proprio a livello da quando guardo il calcio, ok? Da sempre. Cioè, facevi fatica a capire che fosse Fiorentina-Verona, però che dire, il primo gol di Orban, bello, bellissimo, l'attaccante, no, no? Ce lo ricordiamo già dal Belgio, però raga, cioè, se ne vede troppo di sti gol. Cioè, devi semplicemente allungare un pallone dritto in verticale. Finisce. Orban è riuscito a piazzarla ed era tipo a 18-20 metri dal portiere, un po' decentrato. Anche lì il portiere era non una grossa posizione, ed è De Gea, cioè non è l'ultimo arrivato. È proprio tutto brutto a Firenze, è tutto brutto. È tutto brutto, un bel po'. Il primo gol sembra di quelli che ce la porta con le ruote e te la spostano mentre quello tira. Esatto. Sì, e soprattutto era la partita in cui tu dovevi, non hai ancora vinto una partita, sei a 6 punti, ti ricordiamo, 2 regalati. Due partite in cui hai avuto il punto gratis con noi e col Pisa. Quindi saresti lì a giocartela col Wolverhampton come maglia nera d'Europa, che ha ancora 2 punti. Che comunque è meglio dell'arancione, è meglio nera magari che total orange, poi tra l'altro, non è che dici solo tanto la maglia, no, proprio total. Mamma mia, ragazzi. Un orange che ricorda un po' il Wolverhampton, questo è il riferimento in questo momento della Fiorentina, che comunque è ancora in tempo per scrivere la storia. Certo. Occhio alla matematica, perché fra un po', se continua così, dopo con la matematica si gioca meno. La storia, la matematica, l'italiano, la geografia, l'anno prossimo derby con la Carrarese. E segnaliamo che la partita finisce 2-1, ma la Fiorentina riesce a non segnare, perché comunque anche il gol della Fiorentina ha un autogol di un giocatore del Verona. Segnaliamo cosa dobbiamo segnalare, questa cosa di andare sotto la curva. Io, allora, a me le scuse sotto la curva piacevano solo quando le faceva Pulli, il fenicottero, quello a Cagliari, la mascotte del Cagliari, il fenicottero, perché vedere un fenicottero che chiede scusa agli Sconvolts comunque ha un suo fascino cinematografico. Così no, così anche no, basta. È proprio fellignano quel momento lì, Cioè, proprio Fellini quel momento lì. Ecco perché, insomma, aveva il suo fascino. Così. Tra l'altro, un sacco di quelli degli Scovels non capivano se erano Scovels o era veramente un fenicottero quello che era davanti, perché magari qualcuno poteva pensare di vedere cose strane. Invece no, era un fenicottero. Primato della Fiorentina comunque che continua, anche qui un primato al contrario, perché è un primato dal basso verso l'alto. Sì, rimangono 6 punti, a questo punto la distanza dalla salvezza, se non sbaglio, è 8 punti, inizia, cioè più di quelli che hai fatto, questa è la situazione ed è quello che racconta appunto la storia, no? Dicevamo, nessuno in questa situazione è riuscito a salvarsi, per ora. Cioè, ripeto, cominciano a essere quasi tre possessi, detta l'americana, di svantaggio rispetto a tutti gli altri, cioè 8 punti sono quasi 9, sono tipo 3 sconfitte, sono 2 sconfitte e 3/4 che tu già c'hai accantonate, non so, manca tutto il girone di ritorno, ok, ma quando ne mancano per finire questa l'andata? 4. Quindi è la 15ª, ne mancano 4. Tu già adesso sai che delle prossime 20 che c'hai da giocare, almeno 10 le devi vincere sicure. Cioè, ma proprio se vogliamo cominciare a parlare di forse, forse salvezza, forse. Ma speriamo, non so che dire. Sì, tu, stiamo facendo ragionamento sull'ipotetica quota salvezza 36, le mancherebbero 30 alla Fiorentina. Può essere anche un po' più bassa, forse quest'anno rimane a 34? Diciamo così, 34, sono 28 ne punti vincere, da fare. Ne devi vincere 10 nelle prossime 20, così, in queste, cioè, come sei adesso, vediamo. Non benissimo, non benissimo, primati, abbiamo detto primati, un altro primato, il primato lo porta alla statistica, aiuta a sostituirlo nei tabellini, negli almanacchi della Lega Serie A, Noslin, eroe non raccontato della Lazio recente, quello che sancisce il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Milan, quello che segna a fine di una partita stranissima contro il Parma, mentre la Lazio vince in 9 contro 11. Siamo contenti di questo primato? Sì, perché? Sì, siamo contenti, sì, perché così ce ne togliamo uno noi. Ce ne togliamo uno noi, cioè andiamo in condivisione. A perdere in 11 contro 9 era stato proprio il Bologna qualche anno fa in casa contro il Milan. Lo ha fatto il Parma a sto giro. Squadra che ha delle difficoltà a fare delle cose facili anche quando tutto gli gira bene, doppia espulsione nel corso della partita per i biancocelesti in trasferta, Zaccagni che fa un intervento da arancione che viene giudicato da rosso e poi anche Basic ci mette del suo e sembra che insomma almeno quel punto te lo porti a casa. Il Parma gioca anche a calcio quando ha la superiorità numerica in 10, diciamo. E quando tutto sembra ancora più facile si fa punire nel modo più esotico possibile. Torna a farsi notare anche Provedel come portiere, diciamo è stato a fasi alterne, anche se ha fatto stagioni molto positive, ieri è stata una di quelle. Ne ha fatte un paio grosse, ma nella serie quanti ne erano? Erano tanti, un botto. Erano veramente tanti, bravi loro. Tanti, sono riusciti a godersi questa vittoria. Vittoria che riporta la Lazio, diciamo così, in zona Europa, ad annusare la zona Europa, non è proprio zona Europa. Con una Lazio che ha iniziato con grossi problemi, e forse Sarri qualcosa la sta iniziando a inquadrare. Mi sembra che stia migliorando, no? il percorso della Lazio. Siamo arrivati al quinto punto. Quarto punto, c'è ancora qualcosa e più di qualcosa, perché abbiamo parlato molto di palestra per quella corsia là, ma c'è il nome per questa corsia qua e ti viene fuori dall'allenatore più conservatore che c'è in Italia in questo momento, che nel suo agire con sufficienza e battezzare dei turnover trova un protagonista pesantissimo per una partita che poi non andrà come se la immaginava, ma proprio neanche un po', e parliamo di Allegri e il protagonista è Bartezaghi, che Allegri mi sa che ha un po' questa cosa anche alla Juve, i giovani li fa giocare se non può fare altro, cioè mettere, perché lui su quel ruolo lì faceva giocare Stupinian a inizio stagione, si è infortunato Stupinian in nazionale e ha fatto giocare per la prima volta Bartezaghi. E torniamo sempre a Gennarino nostro, perché non voglio insistere, ma a me mi ucciderebbe moralmente non andare di nuovo ai mondiali, però se proprio appunto non ci dobbiamo andare, andiamoci così ragazzi, prepariamo il 2030. Sì, prepariamo, guardate come sono freschi, che corsa che c'hanno, che frequenza di passi, ieri 2 bei gol esterno per esterno, tapina alla fine la porta vuota il primo, il secondo è più interessante perché lui non è solo esterno ma è per tracce interne, quindi no, queste sono cose che all'allenatore piacciono parecchio, se riesci a occupare, se vai ad invadere l'interno campo con proficuo, che poi alla fine battezza anche, è intelligente sul gol perché 9 su 10 sparano il diagonale di là, invece lui ha capito il movimento giusto e l'ha messa sul primo tra piede del portiere e palo. Molto bene, bravo lui. ci piace tanto quando è così. Due gol che appunto prima doppietta in campionato, non bagnati però dalla vittoria, perché vero. Il Milan contro le piccole, abbiamo visto, fa più fatica che contro le grandi. E ha deciso Fabio Grosso che quella era una partita in cui si entrava palla al piede in area piccola e stacce. Il Sassuolo fa due gol che si assomigliano molto, triangolazioni fini che portano all'uomo solo con la palla nei piedi in area piccola, e due gol li fa anche il Sassuolo con Coné e Lorienté. Lorienté giocatore melliflo, quello che volete, però alla fine è uno che di lavoro a calcio ci può giocare, se lo possiamo dire, e alla fine è un bel 2-2 e può anche recriminare qualcosa, perché ci sono un paio di scelte, cioè il palo, c'erano un paio di scelte arbitrali che potevano girare in un altro modo, quindi poteva anche essere qualcosa di più. Sono molto contento per Fabio Grosso, perché dopo quel bellissimo campionato di Serie B vinto con Frosinone, fu sfortunato, non so se ti ricordi, fu sfortunato a Lione, vittima della sassaiola, insomma, gli era girato un po' male, e invece a Sassuolo, vero, già rivinto un'altra B, adesso a livelli quasi zona Europa col suo Sassuolo, molto contento per lui. Sì, i discorsi che facevamo per la Lazio direi che sono fattibili anche per il Sassuolo. Sì, 21 punti che per una neopromossa è tantissima roba, tanta. Sì, c'è quella parte centrale lì, quella pancia interessante della classifica, che vede anche in quella zona lì l'Udinese e la Cremonese. Cremonese che è stata un po' truffatina. Sì, derubata a Torino, c'è un rigore netto per dare il rigore. Quello lì, una palla che arriva a 30 metri, lui colpisce di testa, ma poi la stoppa con la mano. Prova a colpire di testa. Che è un attaccante, quindi c'ha quel movimento là. Lui tanto, cioè, è abituato a fare quella cosa là davanti, e al massimo annullano il gol e non si è fatto male nessuno. Era nella sua area. Okay, sì, cioè, vabbè, quello è. Comunque, immagino che a Cremona si stia recriminando, non sulla Gazzetta, dove invece c'è scritto grande partita del Torino, che grazie a Petrachi è tornato la squadra. Era tutto colpa, doveva essere particolarmente insopportabile il direttore sportivo precedente. Sì, adesso, prima invece era un grande anche lui. È così, sai, una piazza calda, così. L'ultimo punto in top 5 è dedicato a quel giocatore che ti fa un gol, tra l'altro molto bello, da tre punti, pesantissimo, che ti sblocca una partita, ti incasina una corsa al vertice e sei là che guardi il terreno di gioco, non lo trovi, poi a un certo punto uno esclama: Eccolo in camp. E ha tirato veramente una bella rasoiata, un gol che è poi il terzo gol dell'Udinese, perché la particolarità di questa partita è che ce n'erano stati due segnati e festeggiati e poi tolti, annullati. Un fuorigioco normalone di Kenyan Davis e un gol annullato a Zaniolo per un fallo, una roba ai confini della realtà. Sì, non ho seguito la dinamica, però ho visto che c'erano queste due eliminazioni. Ero già convinto che la classica partita che poi Conte azzannava nel finale, stavo guardando solo i risultati, non stavo guardando la partita, avevo visto che erano stati annullati due gol a Verona, ho detto dai, adesso finisce che Neres fa gol. Lang o Neres o qualcuno del genere. E invece no, Conte che... Questo è uno da cui io mi aspettavo veramente tanto, perché non so se ricordo, non voglio tornare troppo indietro, però era uno che prometteva di presentare sempre dei progetti tecnici all'assalto con molto furore agonistico, e invece vedo che si è addormentato tanto, vedo che ha sviluppato una certa idiosincrasia a fidarsi di situazioni nuove, di giovani nuovi, perché nonostante sia in totale emergenza soprattutto a centrocampo, i giocatori sono sempre gli stessi. No, di continuo, finché questi appunto cominciano, come ovvio che sia, a calare di prestazioni, è vero che lui col turnover ci bazzica poco. Sì, ovviamente con il doppio, col doppio appuntamento, tra l'altro che non gli sta proprio girando neanche bene, perché si becca Mourinho a Lisbona in splendida forma. Non in realtà il Benfica non era in splendida forma prima di quella partita lì, però come... Era solo Mourinho in forma. Oddio, io l'ho trovato un po' ingrassato, posso dirlo, sta queste guance un po', non so se l'avete visto, un po' imbalsito in guance, sì, però... solo merita, per carità. Ma è skin care quella, non è che ha preso... Scusa. Esatto, quella è un'altra roba. E comunque perde il Napoli in Champions e perde anche con l'Udinese, dimostrando che insomma... Conte il doppio impegno comunque gli cambia la gestione. Bello sapere che Kellenkamp is the new Pajero, perché anche lui, quando vede la maglia del Napoli, tira fortissimo e bolla. Aveva già segnato contro il Napoli l'anno scorso, questa volta il gol è da 3 punti ed è molto pesante. Io ricorderei ad Antonio Conte che Vergara è ormai a 23 anni, non ne ha più 17. Cioè, continua a essere sempre, per evitare che lo dicesse Simone, lo dico io, cioè. L'eterno giovane ragazzino, e tu ce ne parli da 6-7 anni, non sarà più così ragazzino. Lo porterei via, se fossi sua agente l'avrei già portato via da lì. No, perché adesso, di là di tutto, Vergara, ok, è il nostro feticcio, ma il discorso vale un po' per tutti, tornando ancora a Gennaro Gattuso. Cioè, ci vuole che noi veramente ci dobbiamo fidare. Ci dobbiamo fidare, se no andiamo, è come se siamo avvolti da qualcosa di appiccicoso che non ti fa respirare, perché parliamo sempre delle stesse cose, ok? Vergara, tu sei in piena emergenza a centrocampo, se non lo fai giocare adesso a Udine, dopo la trasferta col Benfica, prima gli altri impegni importanti, e quando lo fai giocare? Cioè, se non ti, anche perché mi sembra che nelle ultime 3 partite te l'ha fatto vedere che ti può fidare del mancino che c'è, invece no. Ora a Napoli perdeva lo stesso, ok? Noi siamo qui a raccontarci le favolette. Però tu hai il turnover, insomma, sei pagato apposta per far rendere tutta la rosa. Non puoi fidarti solo di 13 giocatori. Perché se poi questi sono punti che, visto il livello del campionato, alla fine paghi, eh. Cioè, potrebbero essere punti. Eh sì, questo ogni punto che lasci per sapere che cambiato che è, vince una, perde l'altra, pareggia una, riparte quell'altra, tutte inseguissi così. Dall'idea che sia un campionato che si giocherà sui punti, sì. Di distanza, sì. Non cioè sarà su, proprio insomma, stretto. Mi sembra che 3 squadre, diciamo così, siano più corazzate per giocarsela fino alla fine, e stiamo parlando dei 2 milanesi più il Napoli. La Roma, che gioca stasera e può rientrare nel gran ballo delle capoliste, no, proprio capolista no, può recuperare un po' di spazio perché anche lei aveva perso qualche punto, però gioca contro un Como che è comunque lì, che sta facendo il suo buon campionato, quindi non sarà una partita facile, dico. No, anche perché il gioco della Roma è ancora lì, è ancora interlocutorio, non c'ha ancora svelato la sua gasperinità. È vero, nonostante rimane la miglior difesa del campionato, con 8 gol presi, no? Quindi insomma rimane una squadra che ha dei numeri. Sappiamo che se sei una buona difesa, comunque i campionati in alto ci arrivi. Qua, soprattutto qua in Italia, cioè, se sei bravo, ordinato dietro, di solito è campionato di vertice. Poi, esatto. Magari non so se primo o secondo, ma comunque di vertice, quindi se la può giocare con i 3 punti andrebbe a 1 punto dal Napoli, e quindi si infilerebbe proprio nel treno, in scia, diciamo così, con le altre. In caso anche solo di pareggio perderebbe qualche possibilità, il Como ci raggiungerebbe in caso di pareggio della Roma, e del Como giocano contro, quindi ovvio che i risultati sarebbero quelli. Dopo poi il Bologna non giocherà e ci sarà una giornata di campionato senza il Bologna, perché giocando in Supercoppa il campionato andrà avanti. Perché il calendario l'ha fatto un maniaco, ricordiamolo, perché un maniaco ha fatto il calendario. Lo dovevamo ricordare. Bene, direi che abbiamo concluso anche questa fase della top 5. Tra poco ci buttiamo dentro al calcio internazionale. Ale. Buttiamoci dentro la parte dedicata al calcio internazionale, terza parte di Caffè Paglia di quest'oggi. Iniziare dalla Bundesliga, dove solo un po' si è raccontato un po' della storia, della bellezza del calcio, perché avevamo una squadra così bassa. Ci è venuta bene, bravo, ci è piaciuta così, bravo, stai migliorando. E diciamo, appunto, ci racconto un po' di com'è bello questo sport del calcio, perché la capolista, cioè che vince sempre, gioca sempre con tutti, vince tutte le partite, affronta l'ultima in classifica, che in quel momento, fino a quel momento lì, aveva 6 punti, tipo la Fiorentina, ecco, diciamo così, il Bayern Monaco contro la Fiorentina. E tu pensi che sia la solita scorpacciata di gol per il Bayern Monaco, invece finisce 2-2, tra l'altro con un rigore all'87esimo per pareggiare per il Bayern di Kane. L'hanno rischiata. Questo può essere uno stimolo nella lotta per la storia e la matematica della Fiorentina. Potrebbe essere, esatto. Lo mettiamo lì. Il problema è che dici, finalmente il Bayern non vince. Vedrà che le altre andranno tipo all'assalto, capito? Invece no. Rispetto alla seconda, il Bayern ha guadagnato un punto. Nell'unica partita che non perdono ma pareggiano, esatto. Riescono a guadagnare un punto. Guadagnano un punto sull'RB Lipsia che perde contro l'Union Berlino 3-1 per l'Union. Tra l'altro non vince neanche il Dortmund, che aveva a questo punto la possibilità di superare anche l'RB Lipsia. Pareggiano anche loro 1-1. E quindi rimane, diciamo, anzi non solo invariato, ma con un punto di vantaggio in più siamo a 9 punti di vantaggio per il Bayern, che è ovviamente padrone di questo campionato. È bello, c'ha ritmo, stadi ultramoderni, ogni tanto qualche allenatore con fichissime idee, però non sembra serio come campionato. Sempre loro, bisogna aspettare una decina d'anni perché ci sia un altro Leverkusen. Esatto. Va bene, allora chiudiamo, tra l'altro ha perso anche il mio Colonia, quindi chiudiamo l'argomento dedicato alla Bundesliga. Ci spostiamo in Francia, dove ormai invece possiamo definirlo ancora un campionato molto aperto. Di solito in questo periodo dell'anno era simile alla Bundesliga. Ti dirò, forse è il campionato più divertente in questo momento. Uno dei più divertenti, sì, è veramente equilibrato. In testa ancora la sorpresa Lens, non con Tovin, ma con Edouard, stavolta doppietta di Edouard. Battono il Nizza 2-0, che è una squadra in grandissime difficoltà ultimamente, sia da un punto di vista di sostegno dei tifosi, che è venuto a mancare con tanto di schiaffi a Jeremy Boga. Devo dire che è uno che gli schiaffi comunque li chiama anche abbastanza bene, e in Europa malissimo, in campionato altrettanto male. Sono tredicesimi in questo momento il Nizza in campionato. Vince anche il Paris Saint-Germain, che rimane a un punto dal Lens, vince 3-2 contro il Metz in trasferta, e se non sbaglio vince anche si riprende il Marsiglia, che vince 1-0 contro il Monaco, sfida importante. Attenzione, è un po' bugiardo il risultato, perché Monaco gioca molto bene, butta via quelle 4-5 palle gol abbastanza nere. È stata una bella partita, prende il ritmo, che risolve ancora Greenwood, e che, attenzione, è un nome che a livello proprio internazionale penso sia uno dei giocatori più on fire nell'ultimo mese e mezzo. Ripeto, lui c'ha tutto l'aggregato di storia personale un po' particolare, un po' c'è di mezzo un giudice, una corsa, cose personali. Magari ne parleremo un'altra volta, però sta facendo un campionato clamoroso. Giocando da matti. Spesso lo troviamo anche nel tabellino dei marcatori. Partita matta della Ligue 1 è Auxerre-Lille, che segnala la vittoria dei ragazzoni di Lille per 4-3. Partita matta che finisce 9-9. Ci fa piacere segnalare anche il ritorno nel tabellino di Usama e Lazzuzzi, però per un rosso diretto all'88esimo. Peccato, speravo in questo 4-3 che magari avesse fatto 7 gol. No, il rosso invece, purtroppo. Invece lo Strasburgo, da quando l'abbiamo incensato in campionato, era terzo, ve lo ricordate, l'avevamo detto, grande stagione dello Strasburgo in campionato, non ne sta prendendo più una, pareggia ancora, però stavo dando un'occhiata, è primo nel girone di Conference, perché è il Conference lì. Vedi che il doppio impegno anche per loro, insomma, sì, squadra giovanissima, ripetiamo, molto giovane, bello, sui progetti che crescono. Progetti interessanti, in Conference League proprio prima da sola lo Strasburgo in questo momento, mentre il campionato è un po' scivolato alla settima posizione. Strasburgo, squadra in cui un presidente di una società con l'attacco scarico o con dei problemi proprio di organico da davanti potrebbe andare a prendere Panichelli, io continuo a sostenere. Quei bomber che era un po' Lautaro style, ok, che insomma stanno segnando un po' in tutti i modi, senza avere una skill move propria personale, però sa quei bomber, bomber, bomber che hanno il gol addosso. A questo punto cambierei campionato e passerei alla amata Premier League del nostro buon Simone. Anche in questa giornata c'era un testa coda, un po' come è stato in Bundesliga, e devo dire che il nostro Arsenal ha sudato le fatidiche sette camicie per battere il Wolves, che ha due punti, ricordo, e rimane fanalino di coda in generale dei campionati europei. Tra l'altro fa fatica a fare gol, però non a fare autogol, perché due gol dell'Arsenal, i due gol dell'Arsenal che portano alla vittoria sono due autogol. È un bel primato anche questo, perché comunque due autogol, l'ultimo al 94esimo, cioè si rischiava di scrivere una grande pesante pagina di Utopia Gunners, e invece la magia del Wolverhampton è più forte anche dell'Utopia Gunners forse. Sì, perché aveva segnato Tulo Wallace Manuel Arrocadare, facilissimo nome da, da ricordare, lo chiamano così in campo, pensa, è già scattato, il primo gol del campionato l'aveva fatto al 90esimo, quindi il Wolves stava per portare a tre i punti in classifica, e invece Mosquera ha fatto l'autogol, il secondo autogol che ha condannato al 94esimo i Wolves a perdere. E l'Arsenal quindi riesce a mantenere il vantaggio sul City, che comunque vince, mi sembra si stia riprendendo. Doppietta di Haaland, anche un rigorino così. È un rigorino contro il Crystal Palace, vince facile 3-0. Al terzo posto è salito l'Aston Villa, che era partito non benissimo, si è sbloccato dopo la vittoria contro il Bologna, e da lì è andato veramente bene. Ha vinto il derby Claret and Blue, se non mi sbaglio, in rimonta. Avevo visto qualche immagine, niente male, bello trionfo, questa abbinata di colori molto estetico. Molto sì, bello, sì, veramente bello, contro il West Ham 3-2 in casa del West Ham, e quindi continua a correre, e in questo momento ha un punto sotto il Manchester City, quindi ha tre punti dall'Arsenal. Doppietta di Morgan Rogers, ma anche qui un autogol, cioè molti autogol, talmente molti autogol che la prima notizia, la prima news di calcio estero della Gazzetta è: stacco perfetto ma la porta è sbagliata, derby da incubo per Voltemade, bellissimo autogol dell'attaccante del Newcastle, bellissimo autogol, è come il ghiaccio bollente, cioè proprio sei all'ossimoro ma racconti una storia estetica pura. E quindi anche lì un altro autogol che ha segnato un po' la giornata di Premier League. La giornata di Premier League è ritornata la vittoria al Liverpool, squadra che appunto sta facendo una stagione abbastanza terribile, complicata. Molto complicata. Segna doppietta e Kitike contro il Brighton 2-0 la vittoria. Torna in campo per infortunio di Joe Gomez Salah dopo la querella con Slot e con la società e un po' col resto del mondo delle ultime settimane, che fa assist per il raddoppio e poi viene mandato in porta da Chiesa e la sbaglia, ma forse si può ripartire da questa prestazione qua. Sì, questo può essere. Invece non gioca, no, gioca veramente un minuto nella partita del Nottingham Forest contro il Tottenham. Nottingham Forest che si è ripreso e vince 3-0 contro il Tottenham. Anche qui un inizio non brillante per il Nottingham Forest. Adesso si sta un po' riprendendo, è sedicesimo comunque, con diciamo il West Ham, che in questo momento sarebbe l'ultimo retrocesso, distante solo 5 punti, quindi ancora di strada da fare ce n'è, però è stata intrapresa la strada giusta. Il Noia ha sempre giocato tranne questa, non è che non sta giocando. E cambiamo campionato? Va bene, andiamo in Spagna. Dove vogliamo andare? In Spagna, dove vincono le due capolista, sia Barcellona che Real Madrid. Real Madrid con l'Alavés 2-1, il Barcellona col nostro Osasuna 2-0, diciamo abbastanza classici insomma risultati per quanto riguarda il appunto la Liga. Vince anche l'Atletico Madrid contro il Valencia e il Villarreal invece non ha giocato e quindi non, non tiene il ritmo perché non ha giocato. 43 i punti in vetta del Barcellona, a meno 4 c'è il Real, ancora a meno 4 ma con due partite in meno c'è il Villarreal. È vero, sì, no, ha smesso di giocare un po'. Adesso no, mi fermo, faccio la pausa invernale. Villarreal fa così. Segnaliamo che ha vinto dopo la partitazza europea che ci ha visti trionfare sul campo del stadio del Balaidos, il Celta Vigo torna alla vittoria. In campionato aveva già vinto prima di noi 2-0 contro il Real, vince 2-0 anche contro l'Athletic Bilbao. E vince in casa, che appunto dicevano almeno i giornalisti che il problema della stagione del Celta era più le partite in casa che in trasferta, lo scalpo del Real Madrid appunto è stato in trasferta, ora sono ottavi, tra l'altro vicino, si avvicinano molto all'Athletic Bilbao che ha 23 e quindi un punto di svantaggio con una partita in meno, probabilmente con Villarreal, perché qualcuno giocherà anche contro il Villarreal. Ma c'è anche il Betis che comunque occupa in questo momento l'ultimo posto possibile per l'Europa, che ne ha due in meno. Due partite in meno, ma una con Rayo Vallecano, l'altra con Villarreal, penso. Evidentemente sì, con Rayo questa sera per chiudere la giornata. Esatto, devono finire come Roma-Como, ci sarà anche Rayo Vallecano-Betis-Siviglia. A questo punto direi di andare in Belgio e buttarci dentro a questa meravigliosa stagione del Mechelen, perché qui bisogna dirlo, vince 3-2 contro il Cercle Bruges e continua la sua scalata alle prime posizioni. Cioè, ci credete, Simone? Quest'anno volete la Pool Scudetto? Vogliamo, non solo noi, vogliamo proprio il trofeo. Ah, volete vincere? Assolutamente, quest'anno si può. Io quest'anno sono molto molto molto all'assalto, ok? Festeggerò mangiando tipo mezzo chilo del miglior fondente belga possibile. Nel caso di vittoria. Nel caso di vittoria. E se, per sopperire alla sconfitta? Un chilo di cioccolato. Quindi, conoscendoti, so che non manca o non mancherebbe comunque il cioccolato. Il Mechelen è quinto a 30 punti con 8 punti di distacco dalla prima, che è Royal Union de Saint-Gilloise. 8 punti che sappiamo significano poco o niente o qualsiasi cosa. Esatto, comunque si dimezzano, sarebbero 4 ripartendo dalla quindi tutto giocato. Anche se l'Union de Saint-Gilloise gioca veramente bene, posso dirlo, quando l'ho visto in coppa una delle squadre più belle da vedere quest'anno, vediamo come procede. Gioca un bel calcio, pareggia 1-1 con lo Charleroi, rimane in testa perché aveva un grande vantaggio perché il Club Brugge vince 5-1 sul derelitto d'Ender e si avvicina a meno 3 che sappiamo diventerà 1 perché tutto è bellissimo. Il Belgio rimane il Saint-Gilloise al quarto posto, un po' a sorpresa diciamo così nelle prime, poi vedo il Mechelen appunto di cui abbiamo parlato e al sesto posto, però pari merito con la settima, adesso non vorrei che ci fosse qualcosa sotto, lo Standard Liegi. Alle Standard abbiamo perso 1-0 in casa con Leuven, così per ristabilire un attimo l'ordine delle cose andava fatto, perché altrimenti poi rischi di finire in quell'altra pool. Sentire la frase per ristabilire l'ordine delle cose riferito a qualsiasi cosa riguardi il Belgio fa effetto. Esatto, si può evitare. Loro pensavano, cioè con questa sconfitta erano convinti che il Genk vincesse in casa contro il Westerlo, tra l'altro ha giocato in 10 il Westerlo per lunga parte della partita, perché così il Genk li avrebbe superati e sarebbero tornati al settimo posto laddove le cose succedono. Invece no, alla fine il Genk ha pareggiato e rimanete pari ma avete migliore differenza reti. No, forse lo scontro diretto, la differenza rete è peggiore in effetti, ma tanto è lunga. Possiamo andare ad assestarci dove ci piace. Ok, questo sarà compito delle prossime giornate. A questo punto spazio alla Serie C girone B, calcio internazionale. Ovviamente so che è arrivato un punto, un altro punto, ennesimo punto per la San Benedettesi in una trasferta a Pontedera. Trasferta a Pontedera, allora non si vince da 3 mesi ormai, però è anche vero che non si perde da un mese, forse un po' di più. Un altro pareggio è un punticino alla volta, un mattoncino alla volta, un passetto alla volta, e sarà lunga quest'anno, Mingo, sarà molto molto lunga. Allora, come al solito, un po' bruttini il primo tempo, adesso no, purtroppo lavoravo, mi sono rifatto con dei una lunga immagine in highlights, però insomma non ho potuto vedere le sorge di mister D'Alessio, che arriva da Rimi, giovane allenatore per un progetto giovane. Ed è qui la questione, perché da giù, da casa, arrivano un po' di mugugni, un po' di... Ah, questo è un progetto fatto sui ragazzi, sugli under, e quando fai un progetto sugli under la prima cosa che ti serve è la pazienza. Lo sapevamo, quest'anno ci dovevamo salvare, siamo ancora lì, dovevamo essere a 4 punti da entrambe le zone, se non mi ricordo. Sì, esattamente, 4 punti dai playoff e 4 punti dai playout. Che è esattamente dove, insomma, tutti noi più o meno, anzi quasi speravamo fossimo. Ok, quindi con calma, a me piace tantissimo questo progetto qua. Sono dell'idea che se c'è un progetto fatto sui ragazzi ti serve un allenatore giovane, ok? Vediamo se la prima partita è un altro punticino che fa Battista. Sono contento che ha pareggiato Battista al suo esordio, diciamo al suo primo gol tra i pro, ok, in Serie C, sotto lo spicchio dei nostri ragazzi che sono comunque andati, 140-150 persone a Pontedera. Ci vuole che parliamo di meno, che siamo tutti tranquilli, che ci facciamo sto campionato, no? L'importante è che ti salvi, poi dopo per assestarti ci avrai tempo e modo. Va bene così, però raga, dobbiamo cominciare a fare gol davvero. Cioè dobbiamo cominciare a fare non un gol ogni tre partite, ma insomma. Il problema è quello. Però se a gennaio qualcosa si può fare, vediamo. Si può fare? Cioè, non lo so, vediamo. Non puoi sbilanciarti. Allora, di Roma Como e Rayo Vallecano Villarreal abbiamo già detto, ma il calcio italiano prodotto di esportazione per questa sera propone anche Arezzo Pineto e Vispesaro Ravenna. Attenzione. Allora, sono potenzialmente due belle partite, perché un Pattarello fosse un osservatore straniero, io lo darei l'attaccante 10 dell'Arezzo, e anche il Ravenna, che anche lui in quanto ad attaccanti se la cava bene. Approfitto del calcio internazionale perché voglio dire, sono molto contento per Alvini e il suo Frosinone, parliamo un attimino di Serie B, che al momento sono lassù, sono molto in alto, perché era stato molto sfortunato nella sua esperienza con la Cremonese in Serie A. È una persona preparato, con delle belle idee, una persona squisita, molto molto delicata anche nei rapporti con la stampa. Sono molto contento per lui. Bravo. Simone ha assaggiato Alvini, squisito, delicato, gli ha dato un leccotto quando l'ha incontrato. Era molto bello vederlo nelle conferenze, nelle interviste, nei rapporti umani. Beh, lui è davvero sfortunato, perché la sua Cremonese giocava bene ma non segnava mai, nonostante avessero preso Cyril Dessert, capocannoniere della Conference dell'anno prima, che poveretto, sì, non ce la faceva. Ho preso io a fantacalcio, me lo ricordo bene, me lo ricordo proprio bene. Comunque la sfida, cioè tu dici, darei, se fossi un osservatore, darei un'occhiata anche all'Arezzo o a Ravenna, però o uno o l'altro, perché giocano in contemporanea, quindi non li puoi vedere contemporaneamente tutti e due, forse perché sono in lotta per la prima posizione, quindi li fanno giocare alla stessa ora. Mi sembra un po' strano. È un campionato serio, a differenza di molti altri. Esatto. Comunque giocano appunto alle 20:30 entrambe questa sera. In questo momento Ravenna è primo a 41 punti, l'Arezzo a 38, c'ha una partita in meno da recuperare probabilmente con Villarreal, anche l'Arezzo, e poi c'è l'Ascoli, che si è un po' staccato, diciamo così, ha pareggiato 0-0 contro il Guidonia, che comunque è quarta in classifica, quindi molto bene, è tutto molto bello, è tutto molto bello. Si è un po' fermato e a 33 punti inizia a essere un po' distante dalla coppiata di testa. Adesso in realtà poi manca il Rimini, quindi non avranno mai più le stesse partite giocate. Ah, giusto. Manca una squadra, era un campionato serio un minuto fa e adesso non lo è più. È vero, giusto, questa situazione, quindi non c'entra Villarreal in questo caso nel girone C, le partite che mancano non saranno giocate con Villarreal. Potrebbero spostare la franchigia a Rimini direttamente fare il gioco. Bene, questo per quanto riguarda la Serie C. Diamo un occhio veloce anche alla Serie B, abbiamo qualche minuto, ci dicono nei messaggi dei nostri ascoltatori che parliamo poco di Serie B che comunque ha già disputato 16 partite e vede il Frosinone in testa, un po' a sorpresa dopo un inizio folgorante del Monza, che aveva infilato 11 vittorie consecutive, una cosa del genere. Il Frosinone piano piano li ha superati. Frosinone batte il Pescara 2-1, mentre il Monza perde in casa al Venezia. Pescara, che era andato in vantaggio con una magia di Tonin su un appoggio di proprio di Dagasso, mi sbaglio. Questo qua ha fatto sparire il pallone da sotto gli occhi del centrale del Frosinone e aveva depositato per il vantaggio biancazzurro, ma ahimè quelli di Pescara perdono. Vabbè, che devi fare? No, sono ultimi, no, credo, dai, poveri. No, mi dispiace. Ti dirò, ci sono De Planche in porta e appunto Matteo Dagasso a centrocampo, che sono altri due che io avrei già abbondantemente fatto salire di livello, avrei già portato insomma ad altri piani. Cioè, adesso a me dispiace perché è l'unica squadra sotto la Sampdoria. Io volevo che la Sampdoria non avesse nessuno sotto. Sì, sarebbe stato molto estetico. Io invece ci tengo molto a che mantengano la categoria senza perdere tempo a cercare scalate l'Empoli e la Carrarese, perché così l'anno prossimo possiamo fare delle cose di sabato. I derby. Ah, qua sei derby. Carrarese che io quasi casualmente ho visto le immagini, fa un gol della Madonna con Nico Schiavi, fa una rovesciata al limite dell'area di rigore davvero clamorosa, niente male anche loro. La Serie B, è vero, hanno ragione, ne parleremo di più, lo promettiamo. Bene, inseriremo nel calcio internazionale anche un po' di Serie B. Siamo arrivati al termine anche di questa, manca l'ultimo quarto di trasmissione e ci arriveremo tra poco. E rientriamo per l'ultima parte, ultimo quarto di Caffè Paglia di quest'oggi. Oggi spazio alla pallacanestro. Abbiamo terminato la lunga stagione della Formula 1 e quindi riprende lo spazio la palla spicchi in questa parte. La De Black bolognese non si ferma solo alla sconfitta del Bologna contro la Juve, perdono sia la Virtus che la Fortitudo, giusto per completare questo weekend nero per lo sport bolognese. La Virtus perde a Milano che da quando non ha più Messina sembra una squadra di basket anche quasi gradevole da vedere. Tra l'altro anche in Eurolega sta andando molto bene, evidentemente c'era qualcosa lì che toccava. Poeta è sicuramente un ottimo allenatore, già l'anno scorso l'aveva dimostrato da capo allenatore, doveva essere l'allenatore dell'anno prossimo, no? Di Milano, doveva esserci il passaggio di testimone, è arrivato un po' prima, forse meglio così, almeno mi sembra per i risultati totali. In classifica però vedo cose strane. Al primo posto c'è Brescia, diciamo, guardiamola all'americana, vittorie e sconfitte, come percentuale vittorie e sconfitte, sono due le squadre in vetta alla classifica, sono Brescia e Trapani. In realtà se guardo la classifica c'è solo Brescia. Mi spieghi qualcosa di quello che sta succedendo a Trapani, che io ho perso un po' di puntate? Allora, a Trapani la situazione è particolare perché è particolare Antonini, Valerio Antonini, il patron di Trapani Basket e Trapani Calcio. Trapani è penalizzata dall'anno scorso per una questione legata ai versamenti fiscali relativi alle iscrizioni al campionato, nello stesso modo in cui il Brescia di Cellino è stato penalizzato a fine campionato, salvando così artificiosamente la Sampdoria. Lo stesso commercialista si è occupato degli stessi versamenti. È una roba curiosa e macchinosa. Ricordiamo che Cellino di lavoro muove container vuoti in giro per il mondo, cioè quelli vuoti, cioè che ti serve un container e lui ce l'ha già nel posto in cui ti serve, perché ce li ha in parola, come se fossero beni immateriali. Antonini è un broker di grano. E il commercio... grano nel senso, modo di dire, soldi? No, proprio di cereali. Ah, okay, due persone curiose. Riporto il testuale di Antonini: quando l'intera curva nord giù da noi a San Metto l'ha sfanculato, cioè gli ha proprio detto non ti permettere nemmeno ad avvicinarti tipo a 10 km qui, lui ci rispose una cosa tipo: io andrò tra poco questi col Trapani, se ne pentiranno qua e là. Bene, adesso che siamo tutti e due in Serie C, caro Antonini, vediamo come finisce questa storia qua. E quindi c'hai anche... c'è un posto scampato questo qua. Sì, potresti... ne avete presi tanti. Tanti, ma uno l'avete scampato probabilmente. Quindi, insomma, torniamo però al racconto di Trapani, perché Trapani non è partita subito con 5 punti di penalizzazione. No, sono aumentati man mano perché le questioni fiscali legate ai pagamenti di Trapani sono peggiorate. Questo è andato a smontare anche la squadra con alcuni punti di riferimento della squadra. L'allenatore Jasmine Repesa in particolare è anche Amara Di Begovic, giocatore uno dei giocatori di punta della compagine trapanese, che hanno preso su e hanno telato senza allenatore Manni il secondo, e con il secondo allenatore, il vice Alex Latini, hanno già vinto a Treviso. Ma la Lega di Basket prevede che il vice possa fare da primo allenatore in deroga per una sola partita. Ah, ok. E quindi allenatore giocatore. L'ultima partita di Trapani si è giocata con Petruccelli allenatore giocatore, come nelle minors. Grande, bellissimo. E Trapani ha stravinto. Ha stravinto. In otto ha giocato, sì. Leggevo, sei sono andati in doppia cifra, così giusto per essere chiari. Più Arcidiacono, che ne ha fatti 9, quindi sono praticamente tutti in doppia cifra quelli che hanno giocato, e vincono 91-73 contro Udine, e quindi continuano ad avere una classifica diversa, ovviamente, perché hanno in questo momento 15 punti, perché hanno 5 punti di penalizzazione, ne avrebbero 20 come Brescia, che è prima in classifica. Al secondo posto rimane la Virtus con 9 vinte e 2 perse. Per quanto riguarda invece il terzo posto, Venezia perde la possibilità di raggiungere la Virtus, perde 96-90 contro Trento, rimanendo a 16 punti, diciamo così. Poi appunto Trapani in questo momento al quarto posto, tutto virtuale, nel senso che soprattutto con uno sport in cui si gioca poi ai playoff, avere una squadra penalizzata all'interno della griglia playoff cambia un po' le cose. Eh sì, incasina parecchio le carte, e per gli ultimi posti dei playoff molto interessante il duello per l'ultimo posto utile, il triello, come direbbe Sergio Leone, tra Napoli, Cremona e Trento, con Napoli che sta piano piano costruendo un'idea di basket con senza soldi, che è interessante. Sì, interessante. Sono tutti appunto a 5 vittorie e 6 sconfitte. Trento, con la vittoria contro Venezia, raggiunge anche lei il risultato. Diciamo, queste tre si giocano un posto in questo momento, una sola andrà ai playoff, mentre per quanto riguarda la lotta per la retrocessione, Treviso e Reggiana in questo momento retrocederebbero con 4 punti, Cantù, Sassari, Varese e Udine sono a 6, quindi sono molto vicine, quindi non possono dormire sonni tranquilli. Diciamo, è come se ci fossero due campionati: da Udine in giù si gioca per la salvezza, da Trento in su si gioca per i playoff. Fortunatamente non a livello di geografia, se no sarebbe un casino. Sì, un po' di incastro ci sarebbe. Dicevamo, perde anche la Fortitudo, perde a Rimini, una Rimini che gioca c'è, non c'è solo quella del calcio della Serie C, c'è anche quella della pallacanestro, e porta la Fortitudo a appunto perdere un'altra partita, dopo aver perso anche con Bergamo, se non sbaglio, in settimana. In questo momento, diciamo, la situazione non è delle migliori per la Fortitudo, che ha 2 sconfitte consecutive, 3 sconfitte nelle ultime 4, contando anche Avellino come sconfitta, e infatti è scivolata un po' in classifica. In questo momento sarebbe, è vero che è lunghissimo, un campionato lunghissimo, sarebbe ottava. L'ottava fa un po' di playoff in più. Pochi. Eh sì, più che altro sei lì nella pancia della classifica, dove basta una minima oscillazione e diventa tutto bello o tutto scomodo. Sì, hai i play-in, cioè i play-in un po' come l'NBA, appunto la 2 prevede quello, in questo momento l'ottava e la nona sarebbero in finale di play-in, perché ci sono le altre 4 sotto che fanno le semifinali per giocarti la finale e l'ultimo accesso ai play-off. Ovviamente Pesaro rimane in vetta con 24 punti, 12 vinte, 5 perse, Verona è lì dietro, Cividale potrebbe arrivarci, Cividale e Brindisi in realtà potrebbero arrivarci, perché hanno una partita in meno, 11 vittorie e 5 sconfitte, quindi insomma forse giocheranno contro, o giocano con Villarreal anche loro. Non giocano contro, perché c'è Rimini Cividale e Rieti Brindisi ancora da giocare, quindi insomma in questo caso c'è quella possibilità per arrivare addirittura in vetta. si giocano sia Brindisi che Cividale la possibilità di raggiungere Pesaro in vetta. Questo per quanto riguarda invece la 2. Diamo un occhio anche alle NBA, che inizia insomma ad avere un po' di partite giocate, diciamo 25-26 partite giocate. È vero che la stagione è particolarmente lunga, questo è il momento della NBA Cup, credo che sia una cosa che sono inventati una roba che si sono inventati per dare un po' di lustro all'NBA di questo periodo, che dal punto di vista televisivo soffre incredibilmente la NFL. È proprio il periodo in cui la NFL diventa la cosa più bella del mondo, ok? È la cosa più importante dal punto di vista degli americani. Chiudiamo con l'NBA e dopo ci ributtiamo nella parte appunto di football americano, perché appunto avevamo anticipato. Intanto c'è Oklahoma ha perso la seconda partita, già questo è positivo, no? 24 vinte, 2 perse. Tra l'altro leggevo una statistica, senza mai fare giocare il quintetto che ha vinto le finali l'anno scorso. Vincenzo Italiano Effect. Esatto, un po' turnover alla Vincenzo Italiano. Nettamente primi, ovviamente, 24 vinte, 2 perse. Denver, che è seconda a Ovest, è 18 vinte e 6 perse. Quella che è più vicino, è un po' una sorpresa, fa piacere per gli amanti magari del basket anni 80-90 ritrovarli. In alto sono i Detroit Pistons, anche del motore a scoppio, perché è una cosa di Detroit che è eredità di un Novecento scomodo. È vero, Detroit per un lungo periodo è stata la città dei motori, poi ha chiuso praticamente tutto, no? Sì, non c'è più niente, c'è grande produzione di documentaristica sul Michigan in generale, e anche Michael Moore se ne è occupato molto dello smantellamento di General Motors prima e di Ford poi. Per rendere un po' più nobile, città che vede in cui nasce Sixto Rodriguez, la leggenda blues, non so se conoscete tutta la storia, insomma, era Gesù Cristo nell'emisfero australe, in occidente non lo conosceva nessuno. È di Detroit anche lui. È lui, Detroit, tante cose. Lo troviamo in testa, 20 vinte, 5 perse, a est ovviamente, seconda nel ranking totale della NBA. Davanti a loro ci sono i New York Knicks con 18 vinte e 7 perse. E al terzo posto ritroviamo i Celtics che sono ancora senza Tatum e avevano iniziato molto male la stagione. Pare che Tatum stia migliorando e quindi potrebbe rientrare prima dei playoff e essere già terzi in questo momento senza il più forte giocatore della squadra può raccontare qualcosa di spazio magari a est per giocarselo, almeno arrivare alla finale. È ovvio che in questo momento Oklahoma sembra imbattibile, sembra destinata al back to back, cosa che non capita da parecchio tempo in NBA. È comunque ancora quella fase di stagione in cui vedi dei 139 a 136 e dici vabbè, proprio la prendi così. Esatto, diciamo che di solito iniziano a contare dopo l'All-Star Game che si disputa a febbraio, le partite di regular season dell'NBA iniziano a contare lì, perché ti raccontano appunto quando sei in lotta per le posizioni dei playoff e per arrivare o non arrivare ai playoff, e questo lo vedremo appunto più avanti. A questo punto ci buttiamo invece dentro a quello che per gli americani è lo sport di questo periodo, di questo mese, diciamo così, due mesi in cui sicuramente il football americano è lo sport principale per gli Stati Uniti. Stiamo andando verso la definizione dei playoff? Sì, le prime squadre qualificate, tra quelle prime qualificate quelli che impressionano di più sono i Rams, i Los Angeles Rams sembrano proprio quadrati, Matthew Stafford, il quarterback è sempre stato ormai è un quarterback leggendario, ma sta facendo davvero una stagione stellare. La notizia è che non ci saranno nei playoff i Kansas City Chiefs. No, addirittura, è già ufficiale questo? Ufficiale, sono fuori dal 2014 che non succedeva e visto che piove sempre sul bagnato, è fresca la notizia del purtroppo, la rottura del crociato proprio di Mahomes. Vabbè, ha detto che non faccio i playoff, posso rompermi il crociato. Brutta notizia, anche perché lui è un quarterback molto mobile, lo conosciamo tutti, plurivincitore degli ultimi insomma 10 anni, perché appunto è dal 2014 che fanno i playoff i Chiefs, e quindi sono fuori, sono incredibilmente fuori, mentre invece tornano a diventare una squadra seria con un quarterback serio che è Drake Maia, i Patriots, che però perdono contro i Buffalo Bills. Vedi che fio sta già esultando. Attenzione, erano avanti di 3 possessi, erano 21-0 i Patriots contro i la Bills Mafia, e poi però Allen si è messo a giocare sul serio e alla fine è finita 35-31 per i Buffalo Bills ormai, e non avranno i Kansas City Chiefs sulla loro strada nei playoff. Questo. Perché ricordiamo, sono stati praticamente sempre eliminati ad un centimetro dal Super Bowl, sempre da Kansas City Chiefs. Quindi vediamo com'è quest'anno. Eh sì, classifica, diciamo così, dell'American League interessante, molto anni 90. Denver Broncos in questo momento sono al primo posto. Sì, il primo, la prima stellina del playoff è proprio la loro. Sì. La prima seed loro da una parte, i Rams dall'altra. Esatto. E poi New England Patriots e Buffalo Bills, questi sono appunto i tre nomi che, insomma, nomi che si conoscono. Gasa questo momento dei Bills, perché hanno rimontato un 21-0, ma settimana scorsa contro Cincy avevano rimontato un 3-21 in casa. Non male. Eh sì, quindi vuol dire che c'è equilibrio e forza mentale, perché riuscire a recuperare nel football americano non è così semplice. No, lui, Allen, è proprio in un momento, ha la potenza che aveva sempre avuto nel braccio, adesso è diventato preciso, chirurgico, freddo. Spero che sia l'anno suo, perché è davvero un giocatore strepitoso che, cioè, se lo merita, non so come dirlo, se lo merita proprio. Vediamo. Tu hai già ipotizzato il tuo Super Bowl che, insomma, ideale in questo momento? Il mio sogno è sempre poter fare ammazzate con Fio durante tutta la... Ah, i Niners ci sono però, eh? Attenzione, ci sono i Niners, magari meno fighi rispetto agli ultimi anni, ma ci sono. Vediamo. I Rams sono forti però. Vediamo. Buffalo Rams potrebbe essere. È molto quotata come finale, vediamo. In questo momento comunque 49ers e Buffalo hanno lo stesso score, 10-4. Ne hanno avuto due percorsi molto diversi, ma i punti sono quelli. Molto bene entrambi, dai. Bene, vedremo se questo appunto potrebbe essere proprio il vostro Super Bowl. Sarebbe bellissimo guardarvi picchiare dall'inizio alla fine. C'è stato il gran galà della Formula 1 in cui si sono dati premi a casaccio, ma non si è dato un premio per la pace a Trump. No, davvero? Allora ne parliamo, perché è interessante. Definendo lo sport motoristico in mano agli emiri una disciplina sportiva meno cialtrona del calcio. Incredibile questa cosa, drammatica. E che cosa hanno fatto? Ha dato i premi in finale? È stato un po' rompete le righe, diciamo così. Sì, è la festa di fine stagione, una cena elegante, come dicevano quelli, praticamente. L'emiro Bin Salman premia un po' tutti. Hanno fatto salire sul palco anche Leclerc, senza dargli dei premi specifici. Un giro. Visto che c'eri, insomma, sei arrivato fino a qua, viene a dire qualcosa. È perché non c'era Trump. Allora, c'era posto anche per Leclerc. È vero anche che Ferrari da quelle parti ha una grossa fetta di mercato. Ferrari che ultimamente ha perso tantissimo in borsa, soprattutto a causa dell'annuncio dell'imminente uscita del primo modello unicamente a trazione elettrica. Pare che stia creando un po' di problemi nella ricezione, perlomeno, di questo Ferrari. L'abbinata Ferrari elettrico sembra che sia nell'immaginario non ancora, insomma, ben visto, e quindi, sai, loro hanno una grossa fetta di mercato lì. Sono interessati. Il problema di immaginario, Ferrari lo sta affrontando in modo pittoresco. È uscito tipo un teaser su il mondo Ferrari, non si vede neanche una macchina, e ci sono degli stronzetti molto carini, molto estetici, molto belli da vedere, che ballano intorno a un tavolo rotondo. Io non credo che, se facessi le Ferrari, avrei bisogno di questi espedienti per farmi accreditare in un pubblico glamour senza far vedere neanche una ruota. C'è un problema di identità che sta caratterizzando Ferrari come un marchio del lusso, ma i marchi del lusso sono un'altra cosa. Tu sei la storia del motore a scoppio, fai le corse, in teoria dovresti fare, secondo me, un altro percorso proprio di immaginario, ma vabbè. E a proposito di acquisti, azioni e cessioni, c'è stata in settimana, è uscita sui giornali questa proposta, sembrava una proposta d'acquisto della Juventus. Posso dire? Hai guidato tu l'accordata? Allora, apriamo una finestra lunga. Oddio, mi è sembrato subito un po' così, perché è una società quotata in borsa, e che significa? Per legge proprio, che non esiste che esce una proposta d'acquisto se prima non l'hai comunicato a chi di dovere. Ecco perché mi è sembrato subito un po' così. Poi un paio di settimane fa erano uscite la notizia che era stata declassificata la società, la Teta era stata declassificata l'agenzia di rating, però adesso diventa un po' sospetto sto declassificazione giusto una settimana prima di presentare l'offerta pubblica d'acquisto verso la famiglia Agnelli. Non so, comincia adesso, magari vedo in marcio dove non c'è, però questo è un ambiente molto molto particolare. Vedere marcio in qualcosa legato alla Juve mi sembra veramente strano, cioè io sono proprio sorpreso. Parlo della Juve, parlo proprio della macroeconomia. Allora ancora di più sorpreso, la base, se c'è del marcio nella macroeconomia mi sorprende questa cosa. Allora, sono un bravo ragazzo, non ci penso io a queste cose, non ci penso. Allora, velocemente, perché non siamo economisti e per fortuna, aggiungo, Tether è una stable coin, che è una criptovaluta agganciata al dollaro. Questo fa impazzire gli americani, perché te non è che arrivi e ti agganci alla valuta di un altro senza farglielo sapere, a meno che tu non abbia degli asset in dollari che giustifichino il valore che tu assegni alla cosa immateriale che produci. Questa cosa, che è fumosa e opaca in tutte le cripto, è particolarmente fumosa e opaca quando tu decidi che hai una valuta di riferimento che è nota e conosciuta e uguale per tutti. Questi qua sono già entrati nella Juve con l'11% di quote azioni comprate a 1,03 euro fino ad avere l'11%, quindi loro sono già nel consiglio di amministrazione. Questo è quello che gli permette di chiamare raccolta le quote dei piccoli investitori che ci sono in giro, dandogli in cambio cosa non si sa ancora, quindi l'operazione è abbastanza fumosa. Bello, bello, bello, fumoso. Passare dalla padella alla brace non sarebbe male, eh? Dopo anni che dici devono mollare gli Agnelli, il cane, ha il detto, tutto, devono mollare e finire peggio. Ma non che le proprietà passate, presenti e future di delle altre siano più di Milan e Inter, tutte queste situazioni un po' strane, però ha detto Elkan che no, è la nostra storia e quindi non è in vendita, così ha detto. E tu hai tirato un sospiro di sollievo. No, ma io guardo, ripeto, il mio rapporto con lui è sempre questo, è come quando tu ti lasci con un ex che hai amato tantissimo e però dal secondo dopo non ti fotte più nulla. Cioè, hai capito, cioè, che era giusto essere sì, ex, sì, ecco, sì, diciamo sì, così. C'è un motivo per cui ex, c'è un motivo. Visto che parliamo di pastoie societarie, Matteo Renzi ha scritto su Twitter che è il momento più basso della viola e non si può andare avanti così. Contemporaneamente... Dice lui da quale palco, però, scusate il giochetto... Da che pulpito lo dice? Essendo lui molto rispettato in ambienti Qatar, inizia a girare la voce più da gente che si occupa di retroscena. Non stava con gli arabi, Renzi? Sì, arabi di Tunisia, sia catarioti che sauditi, okay. Tanto lui ha in modi rapporti con tutti, va a parlare a pagamento in italiano di cose che loro non capiscono. Quindi va bene così, è uno che una figura decorativa del discorso pubblico intorno a queste cose. Potrebbe, qualcuno ha sospettato, fare da gancio per investitori arabi per rilevare la proprietà dalle mani di Rocco Commisso, che da quella volta che ha detto Jobba du Bronx ha innescato un disastro culturale che si concretizza con la Fiorentina a 6 punti in classifica. Bene, vedremo, lo vedremo dalla prossima settimana. Siamo praticamente arrivati al termine e a questo punto vi salutiamo. Buon lunedì a tutti, nonostante la partita di ieri.